Io lo rifletto quando canto il mio cantico, lo mastico, lo espongo come lo conosco. E il tuo pronostico di soldi non mi aggrada, perché è una chimera e la cultura resta a casa. E son d'accordo che uno spicciolo non guasta, ma non è che parli d'ora e la mia musica si guasta. Non si cambia, non è una track di Casablanca, non è che batte e spacca nelle radio dove passa. Ma sì che ormai non si va dallo spessore, tutti quanti fanno i fighi e fanno strofe senza il sole. Ma tale involuzione deve avere spiegazione, belle carrozzerie in giro senza il motore. Mi duole un po', ma la mia lingua vuole ledere ste belle marionette che viaggiano nell'etere. E non ci posso credere, dover restare umile è una mossa falsa recitando da comparsa. Vale, canto di fronte al mio mare, questo suono paga se lo tratti con amore. Sale, qualcuno dice che è tornato in veste, non l'ha mai cagato, ma per noi c'è sempre stato. Vale, canto di fronte al mio mare, questo suono paga se lo tratti con amore. Sale, qualcuno dice che è tornato in veste, non l'ha mai cagato, ma per noi c'è sempre stato. Io sono per la pace come il magma e come Batman, il re scadente che si sente mi rende incandescente come magma. Mamma, barma, taglia, tra un bicchiere così si calma. Io faccio blocco con la manina come il papa, ti smazzo rap e faccio muovere la capa. Rapa, vino con lo stilo cavernicolo, con la clava chiava, con il beat yaba, daba daba daba. Scaldo come grappa, non mi storpiare James Brown col tuo gherappa. Grazie al cazzo che son pazzo, io me la gezzo. Sto nel futuro con i pronipoti gezzo. Non è uno scherzo, sto nello sterco, non sterzo. Enzo, senza compromessi, me stesso, esso, qual è il prezzo? Io sono un bianco come Michael Jackson. Vale, canto di fronte al mio mare, questo suono paga se lo tratti con amore. Sale, qualcuno dice che è tornato in veste, non l'ha mai cagato, ma per noi c'è sempre stato. Vale, canto di fronte al mio mare, questo suono paga se lo tratti con amore. Sale, qualcuno dice che è tornato in veste, non l'ha mai cagato, ma per noi c'è sempre stato. Vivo le storie che ormai tendono all'assurdo, assuefatto dal disturbo di promesse nell'orecchio. Se per andare avanti devo stare sempre in debito, è il mio finanziatore che mi chiama con l'addebito. Tali misfatti mi lasciano scettico, si culo nel mio scettro, anzi mando nel mio regno. Loro che ieri adoravano la dance, con un cazzo di film hanno i calori per il rap. Non sono né diverso né perverso, non giro video con quattro coglioni col cappello di traverso. La mia tipa non è scema, non mena, non picchia, ma tutta il più se voglia mi infotta la nicchia. Elogi la tua city perché l'Oscar ne fai mostra, vieni a Messina e ci mattina in Viale Giostra. Sì che vendi dischi, però non farti il figo se ti fai recensire dal tuo miglior amico. Capito Divo? A terra sta diatriba, metti da parte il rap e datti all'austriba. Vale, canto di fronte al mio mare, questo suono paga se lo tratti con amore. Sale, qualcuno dice che è tornato in veste, non l'ha mai cagato, ma per noi c'è sempre stato. Vale, canto di fronte al mio mare, questo suono paga se lo tratti con amore. Sale, qualcuno dice che è tornato in veste, non l'ha mai cagato, ma per noi c'è sempre stato.